L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, abbiamo come sempre poco meno di un'ora per riassumere questa prima settimana di febbraio 2009, una settimana intensa, ricca di avvenimenti e di spunti, dalla vicenda Englaro, che ormai è sempre più arricchita di tinte tragiche, direi, alla violenza inaudita e gratuita di Nettuno contro un indiano. La formula la conoscete perfettamente, 7 notizie principali per 7 giorni, partiremo da sabato scorso 31 gennaio e arriveremo fino a ieri. I servizi, le interviste e i commenti che riascolterete sono già andati in onda nei GR di Radio 24. Sabato. Apriamo la nostra settimana con l'economia, faremo un rapido giro tra Europa e Stati Uniti e poi chiuderemo il cerchio con il nostro paese, con l'Italia. Una settimana fa l'ombelico del mondo finanziario ed economico era ancora la Svizzera, precisamente Davos, dove si conclude il Forum Mondiale dell'Economia. I grandi radunati in Svizzera dicono no sostanzialmente al protezionismo, ma il clima è ben diverso ormai rispetto a qualche tempo fa, insomma la crisi incombe anche a Davos. Sentiamo l'analisi nel GR delle 7 di domenica dell'inviato del Sole 24 Ore, Vittorio Darold. Al vertice del World Economic Forum si è assistita alla trasformazione dell'uomo di Davos, così come lo aveva definito Samuel Huntington. Non c'è più la fiducia senza limiti verso la deregolamentazione del mercato, ma si torna alla richiesta di controlli, spese pubbliche, garanzie sociali. Il pendolo torna a battere verso l'ingresso dello Stato nell'economia, anche se solo temporaneamente. Le cifre sono drammatiche, in un anno sono stati cancellati 10.000 miliardi di asset, 70% del PIL USA di un anno, 100.000 posti nella finanza a New York. Senza i derivati ci saranno il 30% in meno di posti di lavoro nell'investment bank a stelle e strisce, nel frattempo sparite. Ma la crisi diventa un'opportunità di cambiamento, come ha fatto il presidente di Confindustria, M. Marcegaglia, quando ha chiesto di introdurre un contratto unico che elimini le disparità generazionali tra giovani precari e più anziani tutelati. Con la scomparsa da Davos dei banchieri americani che avevano furoreggiato negli anni scorsi, da Richard Fuld di Lehman Brothers a John Tane di Merrill Lynch, e la quasi totale assenza dei banchieri inglesi causa nazionalizzazione, il modello di economia sociale europeo torna in auge. Stabilità nella crescita, euro forte, previdenza, sanità gratuita, tutti elementi di coesione sociale. Dopo 4 giorni di lavori e il lancio di scarpe da parte di 100 giovani no global, resta ancora una domanda senza risposta. Chi sostituirà il consumatore americano oggi indebitato come motore della crescita? Nelle stesse ore, dalla parte però opposta dell'Atlantico, Barack Obama prosegue la sua frenetica attività presidenziale. Sabato fa l'ennesimo annuncio, questa volta in campo economico. Sentiamo Alessio Maurizi. Soon, my Treasury Secretary Tim Geithner will announce a new strategy for reviving our financial system that gets credit flowing to businesses and families. Sarà il segretario al Tesoro Geithner ad annunciare la nuova strategia dell'amministrazione americana per rivitalizzare famiglie e imprese. Lo ha rivelato ieri il presidente. Bisogna agire subito, aveva detto Obama, dopo il dato disastroso sul PIL, meno 3,8% nell'ultimo trimestre. Il capo della Casa Bianca è stato di parola. In arrivo dunque un nuovo piano per sostenere le famiglie che pagano i mutui e per far affluire il credito alle imprese in modo che possano creare nuovi posti di lavoro. Obama ha anche attaccato duramente i manager delle società coinvolte nella crisi. Sappiamo, ha detto, che nonostante abbiano chiesto fondi allo Stato, le società di Wall Street hanno versato in modo vergognoso circa 20 miliardi di bonus nel 2008. Il popolo americano non può più tollerare questa arroganza, ha chiarito Obama, che ha così invitato gli amministratori delegati a non prosciugare più coi loro premi i fondi destinati alla ripresa. Dobbiamo ricordare che domenica arrivano nuovi dati terribili sull'occupazione negli Stati Uniti. A gennaio si perdono altri 530.000 posti di lavoro. È il dato peggiore da 16 anni. Pensate, si torna un po' indietro agli inizi addirittura dell'era Clinton. La settimana di Obama intanto è sempre molto intensa e anche con diverse spine. Da un lato infatti ottiene applausi un po' da tutte le parti per il tetto che vuole imporre di $500.000 ai compensi per i manager di Wall Street. Dall'altra però la sua amministrazione perde un altro pezzo. Infatti Tom Daschle deve lasciare l'incarico di ministro della sanità e quindi non potrà seguire la riforma tanto cara a Hillary Clinton. Dashiell aveva problemi con il fisco, in poche parole non ha pagato un bel po' di tasse. Lasciamo l'America, veniamo a noi, perché lunedì rimbalzano notizie nerissime sul mercato dell'auto, che raggiunge i livelli minimi dal 1984. Soltanto a gennaio viene perso il 32% di vendite. Sentiamo invece il quadro sulle banche di Valeria De Rosa. La crisi è profonda e sarà lunga. Il governo è intervenuto in fretta per sostenere il sistema bancario. Ma attenzione, le misure devono considerare il panorama italiano, un panorama del tutto particolare, fatto di legami azionari fra concorrenti, scarsa trasparenza da parte di alcuni azionisti, come le fondazioni, mancato adeguamento della normativa sulle banche cooperative. Senza dimenticare la poca chiarezza che ammanta alcuni servizi. Il riferimento è ai mutui e in particolare ai costi di alcuni strumenti e alla commissione sul massimo scoperto, sulla qual voce spesso manca la necessaria chiarezza agli occhi del cliente. Il garante del mercato chiede oggi di intervenire su queste definite distorsioni del settore del credito. Il tutto mentre proprio dai nostri studi il ministro dell'economia ha sottolineato come le banche di casa nostra siano riuscite a restare in piedi nonostante la crisi. Il nostro sistema bancario è un sistema che c'è ancora agli sportelli. Ancora adesso vai a chiedere un finanziamento. Il nostro sistema, con alcune rimarcabili eccezioni, è rimasto molto più al servizio dell'economia. Mercoledì invece il governo italiano annuncia una serie di interventi. Sentiamo allora quali sono nel servizio di Alessio Maurizi e poi le reazioni con Stefano Totoro. 1000 euro di incentivo per rottamare la vecchia auto, 300 per cambiare lo scooter e 2000 se la vettura acquistata è super ecologica, metano, GPL o elettrica. Il governo sta discutendo in queste ore un pacchetto di misure per rilanciare i consumi e che potrebbe approdare sul tavolo del prossimo Consiglio dei Ministri, come anticipato dal Premier Berlusconi. Le misure che stiamo studiando e che io penso di poter concretamente mettere in provvedimenti nei prossimi giorni a sostegno di certi settori strategici della nostra economia. Un pacchetto da circa 1 miliardo di euro che l'esecutivo pensa di finanziare in parte con l'aumento del gettito IVA. Il testo, non ancora definitivo, prevede anche uno sconto del 20% per mobili ed elettrodomestici, ma almeno nelle ipotesi solo se l'acquisto è legato alla ristrutturazione della casa. Meccanismo che non convince la Federlegni, associazione che riunisce i produttori di mobili. Critica anche l'associazione dei concessionari, secondo cui le misure sono troppo modeste. L'annuncio del Premier Berlusconi viene accolto con soddisfazione da chi vende ogni giorno gli elettrodomestici. Anche se non coinvolti direttamente negli aiuti previsti dal governo, i rappresentanti dei grandi ipermercati vedono l'intervento dello Stato come una possibile soluzione al difficile momento economico che anche questo settore sta vivendo. Ce n'è bisogno, dice Albino Sonato, il presidente di Euronics. Non solo per sostenere le aziende della distribuzione, che sono comunque aziende che producono pile, anche quelle, non è che sono l'industria, ma anche la nostra industria, che ripeto, l'industria italiana del bianco è la numero uno in Europa. Diversi comparti in crisi che scontano sia il cambiamento dei consumi da parte dei clienti sia il difficile momento economico. Una panoramica è offerta da Pierluigi Bernasconi, amministratore delegato di Unieuro. L'audio domestico è in crisi profonda perché il consumo di musica passa attraverso soluzioni individuali e poi assistiamo a una perdita di valore di alcuni comparti determinata dalla diminuzione del prezzo medio, tipicamente i televisori e i PC portatili. Nella selva oscura, diciamo così, di cattive notizie che arrivano quotidianamente sul fronte economico, ci possiamo però consolare in parte con la diminuzione dell'inflazione. Ci spiega tutto da Roma Paola Anania. Con l'1,6% registrato dall'Istat a gennaio, l'inflazione torna ai livelli dell'agosto 2007. I prezzi dunque continuano a scendere, soprattutto grazie agli energetici meno cari per il crollo del prezzo del petrolio. Diesel meno 17,7% su base annua, meno 5,8% su base mensile. Benzina verde meno 18,1% rispetto a gennaio 2008, meno 1,9% da dicembre. Giù anche luce, gas e biglietti aerei, meno 9,4% sul mese. Mentre gli alimentari continuano a crescere ma in maniera più contenuta. I dati diffusi ieri sono calcolati sulla base del nuovo paniere 2009 che vede l'ingresso di 4 prodotti. Roberto Monducci, direttore centrale Istat. 2 sono prodotti alimentari, pasta base per pizze, rustici e dolci e mais in confezione, e 2 sono prodotti tecnologici, la chiave USB e i film in DVD. Nel calcolo dell'inflazione verrà attribuito anche un peso maggiore ad alcuni capitoli di spesa come abitazione, mobili e abbigliamento. Ieri intanto è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri per le misure a sostegno del settore dell'auto e dell'industria. Vale circa 2 miliardi, c'è il previsto bonus da 1.500 euro per chi rottama una vettura da Euro 0 a Euro 2 immatricolata entro il 1999. Invece non c'è alcuna esenzione sul pagamento del bollo. Sempre ieri invece dall'America sono arrivati gli ultimi dati sulla disoccupazione rispetto a quelli usciti domenica e che abbiamo anche anticipato pochi minuti fa. Sembra impossibile, ma le cose stanno andando ancora peggio del previsto. Infatti i posti di lavoro andati in fumo nel solo mese di gennaio sono 598.000. Siamo arrivati al massimo in negativo da 34 anni a questa parte. L'ottavo giorno. Domenica. Adesso ripartiamo con una bella pagina di sport che ci permette tra l'altro di alleggerire un po' i toni che, soprattutto più avanti ve ne accorgerete, si faranno molto seri. Domenica in particolare vanno in scena due spettacoli straordinari che sono agli antipodi in tutti i sensi. Uno è la finale dell'Australian Open, parliamo di tennis, con l'eterna sfida Federer-Nadal. Finale bellissima che arriva al quinto set. Alla fine vince, come capita spesso direi ultimamente, Nadal e Federer scoppia in lacrime. L'altro grande appuntamento della domenica, imperdibile per tutti gli americani, è il Super Bowl di football. Ecco come è andata a finire con Simone Sandri. Con un Bruce Springsteen in grandissima forma a cantare Glory Days durante l'intervallo, il 43esimo Super Bowl non poteva che chiudersi con una giocata gloriosa. I Pittsburgh Steelers, infatti, grazie alla straordinaria meta nel finale di San Antonio Holmes, battono gli Arizona Cardinals 27-23 e si aggiudicano il sesto Super Bowl della loro storia, stabilendo così un nuovo record, davvero un glory day quello di Tampa per gli Steelers. Pittsburgh così riesce a far felice il suo primo sposo, quel Barack Obama, il quale nel pre-partita intervistato dalla NBC aveva formulato un perfetto pronostico. Vinceranno gli Steelers nel finale, aveva dichiarato il mio presidente americano. A sorridere non sono soltanto i tifosi di Pittsburgh, ma anche il network NBC, che nonostante la crisi ha venduto tutti gli spot disponibili durante la gara per una cifra record, 2.6 milioni di dollari per ogni passaggio pubblicitario della durata di 30 secondi. L'audience del Super Bowl, quantificato intorno ai 150 milioni di spettatori, d'altronde, fa troppo gola agli advertiser di Madison Avenue, che utilizzano proprio l'evento sportivo dell'anno negli States per dare il via alle loro campagne pubblicitarie. Domenica, non ce ne possiamo certo dimenticare, è anche per noi italiani giorno di calcio. Nel nostro campionato le cose vanno bene soprattutto al Milan, come ci spiega Carlo Genta. Il campionato respira ancora, merito del Toro che ingarbuglia l'Inter, Inter che approccia la partita piena di sonno, in linea con un pomeriggio da pennichella su tutti i campi. Poi gli uomini di Novellino sapranno conquistarsi la fortuna che li assiste nel finale, con la rabbia dell'Inter che si schianta contro i pali. Nota positiva sul taccuino di Mourinho, squadra che chiude in crescendo e indice di una condizione che sta tornando, forse. Dietro c'è il cambio della guardia fra gli inseguitori. Ora il Milan a tirare il gruppo dopo aver rifilato tre pere a una Lazio in rottura prolungata e aver scavalcato la Juventus. Il tutto con Ronaldinho rigorosamente inchiodato alla panchina. Intanto il Genoa urla al mondo le sue intenzioni serie, giocando una grande partita contro il Palermo ed è casuale che il gol arrivi solo all'ultimo respiro. Tornano tre i punti di vantaggio sulla Roma, che, ridotta ai minimi termini e guidata in attacco da Okaka, già ceduta alla Triestina, salva la pelle nella piscina comunale di Reggio Calabria. Questa settimana segna anche la fine del mercato cosiddetto di riparazione per le nostre squadre di calcio, pochi in realtà gli affari degni di nota, in fondo c'è crisi anche nel calcio italiano. Forse il fatto più eclatante è il trasferimento dall'Inter al Chelsea di Quaresma, portoghese arrivato l'estate scorsa a Milano come un fenomeno voluto fortemente da Mourinho e poi scappato dal nostro campionato, direi travolto dai fischi dei tifosi nerazzurri. Discorso a parte invece per David Beckham, ormai siamo a livello di una telenovela che potrebbe anche avere un epilogo piacevole per il Milan, ci racconta. Conta tutto Dario Ceccarelli. Bella questa storia di Beckham, che riporta quote più normali dopo gli scioperi anti-italiani del Lincoln Shore e i tormentati rapporti con la perfida Albione. Sembrava solo una figurina Beckham, rilucente di brillantini mediatici, ma sempre una figurina. Amo la Italia e sono felice, Invece il nostro Spice Boy ha conquistato con le sue magie la Milano rossonera, che ora, come nel famoso film, si ritrova a sognarlo perché il 9 marzo l'inglese, scaduto il prestito, dovrà tornare in California. Ma anche David non ne ha voglia di tornare nella periferia del pallone. A Milano ha riscoperto cosa vuol dire essere un calciatore vero e conto in banca a parte a 34 anni è sempre una bella soddisfazione. Ancora una volta lo sport fa da ammortizzatore a tensioni di ben alto spessore. Un inglese che sta bene a Milano fa il paio con Capello che siede come un papa sulla prestigiosa panchina dei maestri del calcio. Anche Zola, vero emigrante del pallone, premiato dalla regina Elisabetta come membro dell'impero dell'ordine britannico, è un marchio di garanzia. Che mondo strano, come da bambini a volte basta un pallone per far la pace. Prima di chiudere con il calcio, permettetemi una breve parentesi, un breve accenno ad un'altra telenovela, personalmente anche un po' stucchevole, che riguarda Amauri o Amauri, il centravanti della Juventus, che non ha ancora scelto se vuole essere brasiliano o italiano e quindi giocare in una delle due nazionali. Forse finirà per non giocare in realtà con nessuna delle due, vedremo come si concluderà questa lunga storia. Oggi intanto comincia il Sei Nazioni di Rugby, torneo antichissimo, molto affascinante e direi entusiasmante. Per l'Italia l'impegno inaugurale è proibitivo perché giochiamo in Inghilterra, nel mitico stadio di Twickenham. Radio 24 intanto ha sempre avuto una predilezione per questo sport, per la palla ovale, e questa settimana non a caso ogni giorno dedica un approfondimento al torneo nel GR Extra Large. Ecco la scheda dei campioni in carica, il Galles, firmata da Giacomo Bagnasco. Il Galles è la vincitrice dell'anno scorso, ha vinto facendo il grande slam, cioè aggiudicandosi tutte e cinque le partite, ed è anche la favorita di quest'anno. Nella passata edizione si è vista la mano del nuovo allenatore, che è un neozelandese, si chiama Warren Gatland, che ha conseguito grandi successi anche in passato, e la squadra ha ritrovato la verve, nello stesso tempo ha aggiunto tenuta fisica, disciplina tattica, ma c'è un talento innato anche dietro a questa squadra, ci sono grandi giocatori, grandi individualità. Uno per tutti è Shane Williams, un giocatore di taglia piccola, un'ala, un giocatore che potrebbe sembrare negato per quello che viene attualmente definito il kilo rugby, una disciplina che si basa molto sulle dimensioni fisiche. Eppure Shane Williams quest'anno è stato votato miglior giocatore dell'anno a livello internazionale. Il Galles, oltretutto, in autunno è stata l'unica squadra che ha saputo tenere testa alle grandi formazioni dell'emisfero sud che sono venute in tournée in Europa e ha strappato una vittoria per 21-18 all'Australia. Favoriti quindi d'obbligo. Con lo sport siamo partiti dagli Stati Uniti con il Super Bowl e allora torniamo in America per parlare di uno dei campioni del momento americani, il fenomeno del nuoto Michael Phelps, capace di vincere 8 medaglie d'oro a Pechino nelle ultime Olimpiadi l'estate scorsa. Phelps però è stato beccato a fumare marijuana e così la Federazione Nuoto Americana è stata inflessibile, direi forse anche troppo. Sentiamo Paolo Piacenza. Una punizione non per l'uso di doping ma per il cattivo esempio. La Federazione Americana di Nuoto ha sospeso per 3 mesi l'8 volte campione olimpico Michael Phelps in seguito alle fotografie pubblicate dal tabloid News of the World, in cui il nuotatore fuma marijuana da una pipetta ad una festa di studenti. Nei giorni scorsi la Federazione Internazionale aveva perdonato Phelps dopo le sue scuse pubbliche, parlando di comportamento inappropriato ma anche di fiducia e ammirazione. A casa sua il 23enne fenomeno della vasca, l'unico uomo capace di superare il record di Mark Spitz di 7 ore 20 in una sola edizione dei giochi, ha incontrato più rigore. La federazione statunitense ha annunciato di aver voluto dare a Michael un messaggio forte perché ha deluso molte persone, in particolare i bambini che guardano a lui come un modello e un eroe. A Phelps è stato anche tagliato ogni supporto finanziario federale per la durata della squalifica e se l'Università della Carolina del Sud e il Dipartimento di Polizia di Columbia hanno fatto sapere che non procederanno contro Phelps, lo sceriffo della contea di Richland ha invece promesso severità. Lunedì. L'attenzione si sposta in Calabria perché è il giorno della sentenza per l'omicidio di Francesco Fortugno, il vicepresidente della regione Calabria, assassinato nell'ottobre 2005 a Locri. Ecco il resoconto pochi istanti dopo la lettura della sentenza di Filippo Veltri in diretta nel GR delle 13 di lunedì. Subito dopo il commento di Daniele Biacchessi. Della Corte d'Assise di Locri hanno condannato all'ergastolo come presunti mandanti Alessandro e Giuseppe Marcianò, che sono padre e figlio, e poi Salvatore Ritorto, che è considerato l'esecutore materiale del delitto, e Domenico Audino. Sostanzialmente la Corte d'Assise di Locri ha accolto in maniera quasi integrale, tranne l'aggravante dell'associazione mafiosa, le richieste che erano state fatte dalla pubblica accusa. Una settimana fa i giudici si erano ritirati in Camera di Consiglio dopo che infatti il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, direttamente lui, Giuseppe Pignatone, aveva avanzato le richieste al termine della lunga requisitoria che avevano fatto i due PM della DDA di Reggio Calabria. La sentenza, questo forse è il dato più significativo, è stata letta sostanzialmente in un'aula in cui non c'era nessuno. Qualche familiare degli imputati, la vedova, l'onorevole Maria Grazia Laganà, l'onorevole Beppe Lumia, ma era praticamente assente alla società civile. Lo avevano ucciso in modo plateale, davanti a tutti, alla presenza di un numero notevole di testimoni, come un monito, un avvertimento diretto a tutti quelli che volevano rompere il patto di omertà imposto dalle cosche mafiose di Locri alla popolazione. Francesco Fortunio era un uomo delle istituzioni e voleva il cambiamento, intendeva cioè la politica come servizio, non come mera gestione del potere. A quel patto criminale tra 'Ndrangheta e gangli vitali delle istituzioni, Fortunio si era ribellato e per questo è stato assassinato. Oggi, per quell'omicidio consumato 3 anni e mezzo fa, vi è una giustizia. Ergastolo a mandanti ed esecutori, recita così la sentenza di primo grado. Ma ad assistere alla lettura della sentenza c'era poca gente, segno che il grande movimento di indignazione popolare seguito all'assassinio di Fortunio, con migliaia tra ragazzi e sindaci in piazza, si è dissolto in poco tempo. Nel silenzio la giustizia sta facendo il suo corso, ma per la società civile ora c'è una sfida ancora più importante: mantenere alta la guardia, perché le piovre hanno 1000 tentacoli e non basta certo una sentenza giusta per sconfiggerle in modo definitivo. Anche se, come scriveva Giovanni Falcone, la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una sua fine. La cosa è stata segnalata anche nei servizi che abbiamo appena riascoltato, perché l'appuntamento con la sentenza Fortunio è sicuramente da non perdere, eppure l'aula del tribunale di Locri è semideserta, inspiegabilmente. Spicca in particolare l'assenza dei ragazzi che invece subito dopo l'assassinio sfilarono per le strade della città e anche con un certo rumore. Anna Migliorati ha sentito il presidente di Ammazzateci Tutti, Aldo Pecora. La scelta di non essere presenti a Locri è stata dettata dal fatto che non volevamo esercitare una presenza ingombrante, in quanto noi unica associazione ad aver avanzato richiesta di costituzione di parte civile e il collegio giudicante non l'ha accolta. Per costituirsi parte civile in un processo devi essere costituito prima del fatto doloso, quindi in poche parole noi saremmo dovuti nascere prima dell'omicidio Fortunio. La storia parla chiaro. Se noi esistiamo è perché dopo quell'omicidio siamo scesi in piazza. Nulla però vi impediva ieri simbolicamente di esserci. Ma le nostre facce si sono scontrate in questi anni già aspramente anche con familiari delle persone che ieri sono state condannate all'ergastolo. Quello che però non deve passare è un messaggio di guerra. Le urla servono nelle piazze, farlo nelle aule giudiziarie, aggiungere voci urlanti ed altre voci urlanti non sarebbe giusto. E anche il rispetto, lo ripeto, per la magistratura, noi siamo ragazzi, è vero, siamo irriverenti, però le urla le portiamo nelle piazze, non nelle aule giudiziarie. Quanti di quei ragazzi che all'indomani dell'uccisione di Fortunio andarono nelle piazze a urlare oggi sono ancora impegnati in questa battaglia? Oggi pochissimi, posso dire quasi nessuno a Locri. Dopo la nascita dei cosiddetti ragazzi di Locri, ci hanno definito tutti i ragazzi di Locri perché manifestavamo a Locri, ognuno di noi veniva anche da paesi diversi, ci hanno detto: avete il luogo dove è stato ucciso Fortunio, avrete una radio. Bene, noi per utilizzare quella radio avremmo dovuto dire anche quali sarebbero stati i contenuti delle nostre trasmissioni all'ufficio stampa del Consiglio regionale della Calabria. Insomma, volete una radio, deve essere una radio libera e non controllata a priori. Questa è anche la Calabria, purtroppo. L'ottavo giorno. Martedì. L'abbiamo annunciato prima della pausa, adesso ci trasferiamo in Inghilterra per raccontare una storia sorprendente, ma in realtà fino ad un certo punto. In fondo invece è una storia emblematica del mondo di oggi, un mondo globale, senza più frontiere, ma che non è per forza meglio integrato, soprattutto se poi bisogna fare i conti con la crisi e con i posti di lavoro sempre più a rischio. E così succede che 300 operai italiani finiscono al centro delle proteste dei lavoratori e dei sindacati inglesi a Grimsby. Ed entra tutto questo anche nel dibattito politico inglese prepotentemente. Ecco come si apre la settimana lunedì mattina con Leonardo Maisano da Londra, poi il commento puntuto del direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli. Sarà la giornata di oggi, nel segno di neve e vento glaciale, a dire se in Gran Bretagna la protesta contro i lavoratori stranieri si sta trasformando in una rivolta su base nazionale. Ieri il premier inglese Gordon Brown aveva definito indifendibili le istanze dei lavoratori che scioperano nel Lincolnshire contro l'utilizzo nella raffineria di Lindsay di italiani dipendenti della ditta Irem di Siracusa. La presa di posizione sembra così allontanare il rischio di una divaricazione fra Inghilterra e Italia e fra Inghilterra e Unione Europea, anche se il governo inglese dà segni di scollamento. Il ministro delle attività produttive Mandelson è stato durissimo nel contestare le istanze protezionistiche emerse in questi giorni, ma il suo collega alla sanità, Johnson, ha chiesto un ripensamento europeo in seguito a sentenze della Corte europea che a suo parere avrebbero compromesso la tutela dei diritti dei lavoratori. Non si risolve però così il problema della rabbia che monta in Gran Bretagna. Oggi si capirà meglio che piega prendono gli eventi, anche perché il governo ha avviato una mediazione ufficiale fra le parti nel tentativo di risolvere la disputa del Lincolnshire. La protesta contro la commessa assegnata a un'azienda italiana nella raffineria inglese di Lindsay è sempre più forte. Nuovi scioperi sono previsti oggi. Il premier Brown ha difeso le ragioni del mercato unico del lavoro, ma perde consensi e il governo inglese è accusato di difendere poco i suoi operai. Faceva una certa impressione ieri vedere quegli operai siciliani quasi sequestrati su una nave in porto, impauriti e abbandonati a se stessi. Già il disagio di lavorare all'estero e neanche la libertà di uscire ed entrare in un pub. Che differenza con i tanti lavoratori inglesi di società che hanno vinto commesse un po' dappertutto in Italia, che sono accolti con simpatia senza che nessuno di loro sia accusato di portar via il posto ai propri connazionali. Ma questa è la faccia più dura del mercato unico europeo, della globalizzazione. Quando il lavoro comincia a mancare scatta la tentazione di proteggersi. Una tentazione forte, ma del tutto inutile. Colpisce anche l'indifferenza italiana e non solo del governo. Non abbiamo ascoltato finora dichiarazioni, nemmeno dai soliti intervistati dei telegiornali. Fosse stata bloccata la truppa dell'Isola dei Famosi, avremmo avuto più reazioni, anche dalla stampa. I giorni passano, la protesta però cresce, la tensione non si allenta, almeno fino a metà settimana, perché invece mercoledì sembra profilarsi una schiarita e giovedì si arriva ad una intesa. Sentiamo Cristina Balotelli nel GR delle 7 di ieri. A causa del maltempo partirà da lunedì il cantiere per la costruzione di un nuovo impianto a Grimsby in Gran Bretagna. Niente più picchetti davanti ai cancelli della raffineria, niente più slogan. L'accordo che ha portato alla fine della protesta, negoziato dai sindacati con la Total, proprietà dell'impianto, prevede la creazione di altri 102 posti di lavoro per gli operai britannici, posti che andranno ad aggiungersi a quelli già assegnati all'impresa siracusana IREM, che occupa lavoratori italiani e portoghesi. Nessun lavoratore straniero perderà dunque il lavoro alla raffineria. Per realizzare il progetto commissionato dalla Total Jacobs, la IREM avrà complessivamente bisogno di 300 operai, dei quali un centinaio sono già sul posto. I dirigenti si sono detti contenti che la situazione si sia sbloccata, anche se ancora non è chiaro cosa accadrà sul piano operativo. I disagi legati al mondo del lavoro purtroppo non sono soltanto in Gran Bretagna. Giovedì c'è tensione altissima e ci sono scontri allo stabilimento Fiat di Pomigliano. Ci racconta tutto Enzo Danna. Sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio i 6 operai della Fiat Auto fermati e poi rilasciati dalla polizia durante una manifestazione di protesta nei pressi dello svincolo autostradale della A1 a Cerra a Fragola. Scontri e tafferugli tra gli operai e la polizia che cercava di impedire loro l'ingresso in autostrada. In precedenza i manifestanti, circa un migliaio, avevano occupato l'asse mediano, strada a scorrimento veloce particolarmente trafficata. Esasperati perché da mesi in attesa di risposte concrete dall'azienda, gli operai chiedono garanzie per il futuro occupazionale degli oltre 5.000 lavoratori in cassa integrazione. Mercoledì. E adesso un bel po' di politica, anche se in realtà ne abbiamo già parlato per le scelte in campo economico fatte dall'esecutivo nella prima parte dell'ottavo giorno e poi nell'ultima, lo ricordo, invece ci concentreremo sui provvedimenti della politica, le reazioni poi dei politici su sicurezza e migrati e poi su tutta la vicenda Englaro. Ma mercoledì si chiude invece una lunghissima, estenuante, persino grottesca vicenda, quella della vigilanza Rai, perché dopo l'uscita di scena di Riccardo Villari viene finalmente scelto il nuovo presidente. Sentiamo Elisabetta Fiorito e poi il commento di Marco Mele. 34 sì, 4 schede bianche, 38 votanti su 40 aventi diritto. Come era immaginabile, Sergio Zavoli viene eletto alla commissione di vigilanza Rai con un largo consenso, ma il neo presidente non vuole perdere tempo dopo i mesi di stallo e la vicenda Villari. Zavoli annuncia che il primo punto in discussione nella prossima seduta sarà il rinnovo del consiglio di amministrazione RAI. Non è sopportabile che non si ponga fine a una vacanza. E quindi nella prima nostra riunione noi affronteremo questo problema. Il Popolo della Libertà è pronto per le nomine del CDA RAI, Alessio Butti. Sulle questioni temporali c'è stata qualche riflessione, nel senso che noi saremo pronti già prossima settimana, possiamo invece comprendere il disagio di altri e quindi attendiamo invece il centro-sinistra. Ma il PD chiede invece un cambiamento della legge Gasparri, Fabrizio Morri. Un amministratore delegato forte e un consiglio di amministrazione più snello, di fonte parlamentare e sociale. Alla votazione non partecipano, come già annunciato, i parlamentari dell'Italia dei Valori, nominati anche i vicepresidenti Lainati e Merlo. Fatta la vigilanza, si tratta di fare la RAI. Meglio del passato, se possibile. Sono passati 8 mesi da quando è scaduto il mandato all'attuale vertice. Si sarebbe potuto approvare una legge per tagliare il cordone ombelicale tra partiti e CDA. Legame sancito dalla legge Gasparri, ma da sempre esistente. Una RAI, insomma, sottratta alla proprietà del governo e all'ingerenza dei partiti, in grado di rispondere alla sfida strategica del digitale, come in parte, e andrebbe riconosciuto dalla classe dirigente, ha cominciato a fare con successo l'attuale vertice. Una RAI che sappia anche riconquistarsi credibilità agli occhi di chi paga il canone. Difficile fare ora una nuova legge. Si assicuri almeno indipendenza al nuovo vertice a partire dalla scelta dei consiglieri. Ma non speriamoci troppo. Lasciamo per un attimo le vicende romane della politica, facciamo un passo indietro a martedì e ci spingiamo in Campania per una bruttissima storia che arriva da Castellammare di Stabia. Il servizio è di Laura Vigiano. Si indaga a tutto campo per individuare i killer che ieri hanno ucciso Luigi Tommasino, consigliere comunale del PD, fratello di un ex assessore di Castellammare di Stabia. La polizia ascolta le persone che hanno incontrato il politico 43enne consigliere di maggioranza negli ultimi giorni e non esclude alcuna ipotesi. Quello che è certo è che chi ha sparato dallo scooter che ha avvicinato la macchina guidata da Tommasino mentre era con il figlio di 14 anni rimasto illeso, non era inesperto. I due, secondo alcuni testimoni, avevano il volto coperto dal casco. Il passeggero ha sparato una raffica di colpi, una quindicina nell'arco di circa 10 metri. Insomma, un agguato dalle modalità camorristiche. Luigi Tommasino, incensurato, è descritto come un politico poco esposto, una persona che non aveva contatti con la criminalità organizzata. Dalle prime indagini non risulta che abbia ricevuto minacce. Tra le ultime persone che lo hanno incontrato, il sindaco Salvatore Vozza, che sostiene di averlo visto sereno, come sempre. Oggi nel comune dell'area vesuviana, il Consiglio Comunale ha indetto una riunione straordinaria. Torniamo a Roma e a quello che succede nelle aule di Camera e Senato. Le cronache della settimana politica registrano tante cose, tra cui per esempio l'abbandono fragoroso di Paolo Guzzanti dal Popolo delle Libertà, mentre Di Pietro finisce nel registro degli indagati con l'accusa di offesa, di vilipendio al Presidente della Repubblica. E poi c'è l'intesa sulla legge elettorale per le elezioni europee. I dettagli con Elisabetta Fiorito. Passa alla Camera la legge elettorale per le europee, passa lo sbarramento al 4%, malgrado la protesta dei piccoli partiti fuori e dentro Montecitorio. Una larghissima maggioranza, 517 voti per un provvedimento che mantiene le preferenze. Salta il voto segreto perché non si raggiunge la richiesta di 30 deputati. Soddisfatto il Popolo della Libertà, Fabrizio Cicchitto. Il 4% non è una gran cifra. L'estrema sinistra nel passato era al 13%. Il 4% non è irraggiungibile se riuscissero ad aggregarsi e che litigano tutti i giorni. Consenso anche nel Partito Democratico. Dario Franceschini risponde alle proteste della sinistra radicale. Perché bisogna evitare che ci sia troppa frammentazione, che l'Italia non conti niente nel Parlamento europeo. Ed è una legge che spinge ad aggregare le forze simili anziché continuare a dividersi, anche la nostra sinistra. Ma per Rifondazione invece la mossa del PD è contro di loro. Paolo Ferrero. Veltroni spera di distruggere la sinistra attraverso la logica del voto utile e quindi dello sbarramento. Fino adesso ci siamo concentrati su una serie di terreni come la vigilanza RAI o la legge elettorale. sui quali PD e PDL hanno trovato una convergenza. Quando invece si parla di intercettazioni, prevalgono i toni accesi e le distanze tra le parti in causa. Mentre Gioacchino Genchi, ex consulente di tante inchieste di tanti PM, a cominciare da De Magistris, è giovedì protagonista di un'infuocata puntata di Anno Zero di Santoro, finisce indagato. Da Roma, Andrea Viali. Violazione della privacy e abuso d'ufficio sono i reati contestati a Gioacchino Genchi dalla Procura di Roma, che indaga sul presunto archivio raccolto dal consulente che negli ultimi anni ha collaborato con numerosi giudici e pubblici ministeri. Sotto esame sono in particolare i tabulati telefonici da lui raccolti per conto dell'ex PM di Catanzaro, Luigi De Magistris, nelle inchieste Why Not e Poseidone. L'iscrizione di Genchi nel registro degli indagati arriva mentre fra le forze politiche si fa sempre più acceso il confronto sulla nuova legge sulle intercettazioni presentata dal governo e ora all'esame della Camera. Il leader dell'Italia dei Valori, Di Pietro, ieri ha rivolto un nuovo appello al Presidente della Repubblica Napolitano, al quale ha chiesto di non firmare il provvedimento dopo la sua approvazione in Parlamento. Si chieda, signor Capo dello Stato, se davvero questo sia costituzionale o no, o se non si umilia ancora una volta la funzione della giustizia, costituzionalmente garantito come legge uguale per tutti. Anche il Partito Democratico boccia il disegno di legge sulle intercettazioni, ma giudica prematuro l'appello a Napolitano. Con la nuova legge gli abusi finiranno, sostiene invece il premier Silvio Berlusconi. In tema di giustizia aggiungo soltanto che il Consiglio dei Ministri di ieri, nel quale peraltro si è discusso di tantissime altre cose, ha dato l'ok al disegno di legge di riforma del processo penale. In estrema sintesi, l'accusa viene parificata alla difesa, cioè dovrebbero diventare accusa e difesa due parti processuali sullo stesso livello, senza che una abbia più poteri o più disponibilità dell'altra. L'ottavo giorno. Giovedì. Nell'ultima parte del programma andremo a toccare quelli che, a mio giudizio, ma direi di chiunque, sono gli argomenti più sensibili di questo periodo, sempre in prima pagina sui giornali e sempre in primo piano nel dibattito pubblico. La prima questione si snoda tra immigrazione, fenomeni di razzismo che sono crescenti e violenza. Partiamo da sabato scorso, quando le decisioni del GIP sui rumeni, protagonisti dello stupro di Guidonia, scatenano forti polemiche. Sentiamo Paolo Panceri. Ancora polemiche per la concessione degli arresti domiciliari dopo una violenza sessuale. Ora il carcere casalingo è stato concesso dal giudice per le indagini preliminari di Tivoli anche due rumeni che hanno favorito la latitanza dei quattro connazionali accusati dello stupro di Guidonia. I due hanno ottenuto domiciliari in casa di alcuni parenti in Nord Italia. La decisione, che arriva dopo la concessione dello stesso beneficio anche al ragazzo reo confesso dello stupro di Capodanno alla Fiera di Roma, a distanza di soli due giorni dal suo arresto, ha dato il via a una lunga serie di polemici interventi da parte di esponenti del centrodestra. Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, si dice sconcertato, mentre Maurizio Gasparri esprime stupore per la decisione. Il presidente dei deputati del PDL, Fabrizio Cicchitto, rileva come esistano magistrati molto indulgenti nel trattare i responsabili di stupro. Per il sindaco dimissionario di Guidonia, Felice Lippiello, occorreva un'interpretazione restrittiva della norma. Da segnalare infine l'arresto a Cassano allo Ionio, nel Cosentino, di 5 romeni tra i 20 e i 23 anni, colpevoli di aver violentato una loro connazionale di 21 anni. I tatuaggi che un paio di loro avevano sul braccio hanno permesso di rintracciare l'intero branco. Domenica invece si verifica il fatto tragicamente più eclatante della settimana. A Nettuno, una quarantina di chilometri a sud di Roma, un gruppo di ragazzi infierisce su un incolpevole indiano. A scatenare la violenza, dicono gli accusati, non c'è nessun tipo di razzismo né tantomeno un movente politico, ma semplicemente la noia, e forse direi questo è il lato più agghiacciante della storia. Sentiamo la cronaca di Paola Cavalli. Volevano provare un'emozione forte, hanno detto i carabinieri, ma adesso si ritrovano a fare i conti con l'accusa di tentato omicidio. Tre giovani, tra cui un ragazzino di 16 anni, sono stati fermati ieri dai carabinieri di Nettuno perché ritenuti responsabili dell'aggressione di un cittadino indiano di 35 anni. Singh, questo è il nome della vittima, era rimasto senza lavoro, per questo aveva cercato una sistemazione di fortuna. L'aveva trovata su una panchina dell'atrio della stazione di Nettuno, dove l'altro ieri notte, mentre dormiva, è stato svegliato a calci e pugni. Il sedicenne e i suoi amici di 19 e 28 anni stavano tornando a casa dopo una notte a base di alcol e droghe e devono aver pensato di concludere in bellezza la serata. Lo hanno prima picchiato brutalmente, poi lo hanno cosparso di benzina e infine gli hanno dato fuoco. Da quello che hanno raccontato ai carabinieri, volevano solo fare uno scherzo e non cercavano necessariamente uno straniero, ma poi non sono riusciti a spegnere le fiamme e sono scappati. I carabinieri sono stati avvertiti all'alba di sabato da una telefonata anonima. Adesso Singh è ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma con ustioni del terzo grado sul 40% del corpo. Dunque, ieri l'uomo indiano è stato operato, l'operazione è durata 4 ore e i medici sono comunque riusciti a trapiantare circa il 90% del tessuto ustionato. C'era alla fine dell'intervento una certa soddisfazione, però l'uomo indiano dovrà essere sottoposto a un nuovo intervento tra una decina di giorni. Sul fronte delle indagini, invece, giovedì il GIP di Velletri ha convalidato il fermo dei due maggiorenni presunti aggressori dell'immigrato indiano, ha motivato la scelta con gravi indizi di colpevolezza, anche se poi ha aggiunto la responsabilità è da accertare. Inevitabilmente questi fatti di cronaca surriscaldano ulteriormente il dibattito in Parlamento sul decreto sicurezza, che riguarda anche una serie di norme da adottare nei confronti degli immigrati clandestini. Giovedì si chiude la discussione in Senato, sentiamo com'è finita con Elisabetta Fiorito. Il decreto sicurezza passa all'esame del Senato senza pericolo di franchi tiratori, ma adesso bisognerà vedere cosa succede alla Camera. Non tutto potrebbe filare liscio a Montecitorio dopo l'approvazione dell'emendamento della Lega che prevede la denuncia da parte dei medici dei clandestini in cura in strutture pubbliche, una norma contestata duramente dall'opposizione e dai rappresentanti della società civile. Il carroccio però non retrocede, Federico Bricolo. Questa è una norma che è già in vigore in molti paesi europei, la sinistra deve sempre criticare. Noi vogliamo garantire un servizio sanitario migliore per i nostri cittadini, allo stesso tempo vogliamo anche capire chi entra nei nostri ospedali. Nella maggioranza Paolo Bonaiuti nega che il Popolo della Libertà sia succube della Lega, mentre nell'opposizione è duro il giudizio del Partito Democratico, Walter Veltroni. Di creare le condizioni per le quali persone che sono ammalate abbiano paura di farsi curare è un'idea inumana, un'idea sostanzialmente razzista. Nel decreto legge anche la tassa sul permesso di soggiorno, le ronde padane non armate, il carcere fino a 4 anni per i clandestini che rimangono sul territorio nazionale dopo l'espulsione. E alla Camera potrebbero tornare i franchi tiratori. Molto di questo durissimo scontro politico ruota attorno all'emendamento che dà la possibilità ai medici di denunciare un paziente immigrato clandestino. Molte le voci critiche con la scelta della maggioranza. Ecco cosa dice ad esempio a Radio 24 Amedeo Bianco, che è presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Ci sembra una misura irragionevole sotto due punti di vista. Uno è tecnico, perché tutte le misure di sanità pubblica si fondano su un principio, che è quello di offrire un libero accesso alle cure pubbliche. In questo caso la paura di essere denunciati faranno sì che pazienti malati, magari anche di malattie infettive, ecco, io non voglio adesso fare terrorismo su questo, però anche di malattie infettive non si rivolgono più alle strutture pubbliche e attivino circuiti, questi sì clandestini, di cure. L'altro aspetto invece è più strettamente etico-civile. È evidente che questo segnale è un cattivo segnale sul piano di alcuni principi generali, che sono quelli di accoglienza, di solidarietà, di vicinanza. Venerdì. Chiudiamo la nostra settimana con una storia che in realtà non sembra finire mai, anzi anche adesso che siamo in onda potrebbe prevedere nuovi colpi di scena. Sto parlando del caso ormai tutt'altro che privato di Eluana Englaro. L'ho detto anche all'inizio trasmissione, più passa il tempo e più salgono i toni tragici di questa vicenda che non ha certo bisogno di presentazioni. Ad inizio settimana Eluana compie quello che potrebbe, dovrebbe, uso più condizionali possibili, essere l'ultimo viaggio da Lecco a Udine. Raffaella Calandra. Le tende abbassate alle finestre, una guardia giurata alla porta e nel silenzio di una stanza della clinica La Quiete di Udine che ora Eluana sta proseguendo il suo sonno dopo il trasferimento notturno da Lecco. Papà Beppino è arrivato anche lui, qui dove un'associazione di volontari staccherà il sondino mettendo in atto quanto stabilito dalla Corte d'Appello. Ma prima, per almeno 48 ore, saranno al capezzale di Eluana, come ha già fatto il professor De Monte che li guida. La cosa più angosciante toccare la grossa diversità tra il vissuto che abbiamo avuto tutti di questa ragazza e trovarmi invece davanti a una persona completamente diversa. Il mio stato d'animo è profondamente devastato. Le sue parole al GR Rai del Friuli rimbalzano contro la nuova ondata di polemiche politiche. La Cassazione ha colmato un vuoto, ora tocca al Parlamento, è l'auspicio del capo dello Stato Napolitano. Il mondo politico concorda sulla necessità della legge sul testamento biologico, ma si divide sul caso specifico. Se il ministro Sacconi dice che sta valutando la situazione, il sottosegretario Roccella teme un precedente gravissimo. Sarebbe anche la prima volta che una donna muore per una sentenza in Italia. Rispetto alla scelta dei genitori, fa sapere invece il presidente della Camera Fini, così come il segretario del PD Veltroni, invita a rispettare le sentenze. Impossibile davvero riassumere tutto quello che succede in questi giorni convulsi sul caso di Eluana, però c'è un salto di qualità importante delle ultime ore perché si innesca addirittura uno scontro politico tra governo e presidenza della Repubblica. Sentiamo Andrea Viali. È un braccio di ferro senza precedenti quello fra Palazzo Chigi e il Quirinale sul caso Englaro. Con una nota nel pomeriggio il Presidente della Repubblica ha annunciato che non firmerà il decreto varato oggi dal Consiglio dei Ministri, decreto su cui aveva già espresso forti perplessità. Anche stamattina con una lettera inviata proprio al Consiglio dei Ministri per Napolitano si tratta di un provvedimento incostituzionale, in contrasto con sentenze della magistratura passate in giudicato e che nonostante la drammaticità del caso non è giustificato da motivi di necessità e urgenza. Una visione opposta a quella del Presidente del Consiglio Berlusconi, il quale al termine del Consiglio dei Ministri ha fatto sapere di essere anche pronto a modificare la Costituzione sui decreti d'urgenza. Sussistono certamente i presupposti di necessità e di urgenza di un intervento del governo, perché questa mattina è già stata iniziata la non fornitura di cibo e di acqua alla persona. Il Premier ha anche preannunciato che in caso di un no da parte di Napolitano avrebbe convocato il Parlamento per far approvare entro 3 giorni una legge che recepisca il contenuto del decreto. Non voglio la responsabilità della morte di Eluana, ha spiegato Berlusconi. Chiudiamo con l'ottava notizia della settimana, cambiamo decisamente pagina e tono. Fiorello è in arrivo su Sky, l'accordo ormai è cosa nota e cosa fatta. Questo è il commento di questo importante passaggio sul satellite di Fiorello del critico televisivo Antonio Di Pollina, lo ha intervistato Alessio Maurizi. È uno show col pubblico perché Fiorello farà comunque degli spettacoli in questo teatro tenda romano con il pubblico di fronte e alcune parti o parti appositamente girate per la TV, per Sky, per il nuovo Fiorello Show, a quanto pare si chiamerà così, in onda dal 1 aprile, mezz'ora di spettacolo 4 volte la settimana, alcune parti di questo spettacolo verranno destinate anche al pubblico televisivo di Sky sul canale che per ora si chiama Sky Vivo e che a quanto pare proprio con Fiorello cambierà nome e assumerà un altro nome che ancora non si conosce. Quindi non è ancora il Fiorello diventa il volto di Sky, ma insomma ci manca poco. Beh, è una mossa fortissima da parte di Sky ed è una mossa fortissima da parte di Fiorello. Stiamo parlando dell'unico in Italia che poteva permettersi di fare lui il pezzo e le proposte con la TV in chiaro. Evidentemente c'è stato anche qualcosa di grosso che non ha funzionato nel rapporto tra Fiorello e la Rai, altrimenti probabilmente non si sarebbe arrivati a questa soluzione. Abbiamo finito anche questa puntata dell'Ottavo Giorno, ottavogiorno@radio24.it per chi vuole scriverci. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, l'appuntamento è a sabato prossimo alle 10 o in replica alle 23.